Martedì 18 marzo, ore 18, quarta lezione, perduto e ritrovato. Del Vangelo di Luca e della sua intonazione, Luca è lo scriba della mansuetudine di Cristo, dice San Girolamo, o chi insomma, no? Qualcuno che lo conosceva. È vero, ma non dice tutto. Cioè le tre lezioni precedenti mi hanno insegnato che non è solo lo scriba della mansuetudine di Cristo. Il tema di oggi invece mi pare che viene anche a ricordarci quanto è vero questo discorso e questa caratteristica. Passo quindi la parola al collega Zani, che ringrazio anche quest'oggi per il suo intervento. Ecco, la riflessione che vogliamo fare insieme questo pomeriggio riguarda il capitolo 15 del Vangelo secondo Luca, e precisamente mi soffermo di più sulla seconda parte di questo capitolo, che come sappiamo racconta la parabola normalmente chiamata parabola del figlio prodigo. In realtà forse vedremo che il protagonista più che il figlio è il padre misericordioso. Prima di affrontare direttamente la lettura della parabola, vorrei inquadrare un po' questo capitolo 15, che è uno dei più belli letterariamente e uno dei più ricchi dal punto di vista teologico. Anzitutto il capitolo 15 si trova al centro del grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Luca dedica 10 capitoli a questo viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, dalla fine del capitolo 9 fino verso la metà del capitolo 19. E proprio al centro di questo viaggio sta il capitolo 15 con le parabole della misericordia. Ora, se noi leggiamo da vicino questo capitolo, scopriamo una struttura, uno schema che a Luca è abbastanza familiare. Anzitutto c'è una introduzione. L'introduzione, che leggo subito, dice così: si avvicinavano a lui, cioè a Gesù, tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Quindi all'inizio c'è un'introduzione nella quale viene presentata la situazione. Gesù frequenta i peccatori, li accoglie a mensa, donando loro non soltanto un gesto di benevolenza, ma addirittura un gesto di fiducia e di simpatia. I farisei protestano. A questa introduzione fanno seguito due parabole, quella della pecora perduta e quella della dramma perduta. E tutte e due le parabole cominciano nello stesso modo. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99? Quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? Quindi abbiamo due parabole che cominciano entrambe con una forma interrogativa. E tutte e due terminano nello stesso modo. Ci sarà, così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E la seconda parabola termina nello stesso modo. Così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. E dopo queste due parabole, che cominciano, ripeto, entrambe nello stesso modo, con una domanda, terminano entrambe con una conclusione identica, segue una terza parabola molto più lunga, molto più sviluppata, quella di un padre che è alle prese con i due figli. Ora, questa struttura ricorre altre volte nel Vangelo di Luca. Cito un solo esempio perché penso che dalla liturgia lo abbiamo ancora impresso nella mente e nel cuore abbastanza bene. Non l'altro ieri, ma l'altra domenica, due domeniche fa, avevamo letto una parte del capitolo 13, che ha una struttura identica al capitolo 15. Anche lì c'è un'introduzione. In quel tempo si presentarono alcuni farisei e riferirono circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Si presentano alcuni e fanno una domanda a Gesù. E Gesù prende la parola e dice: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei? O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?» Gesù cioè risponde con due domande, invitando a riflettere su due situazioni, e tutte e due le conclude lui stesso nello stesso modo. «No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti». E poi seguiva un commento più lungo, la parabola del fico sterile. La parabola che specifica le due domande precedenti, cioè sia nel capitolo 13 che nel capitolo 15 c'è uno schema identico, una introduzione, due domande di Gesù che egli stesso conclude con due risposte identiche e poi un commento ulteriore fatto da Gesù stesso mediante una parabola molto sviluppata. Quindi questo stile è abbastanza caro a Luca, forse Luca stesso lo ha ripreso alla lettera dalle labbra di Gesù. Per tornare al nostro capitolo 15, comprendiamo allora che ha quasi una struttura binaria, cioè da un lato stanno le prime due parabole della pecora perduta e della moneta perduta, sono due parabole ma in realtà costituiscono un unico esempio, e poi un commento molto sviluppato nella parabola del padre misericordioso. La parabola della pecora perduta ricorre in forma però diversa anche nel Vangelo secondo Matteo. Nel Vangelo secondo Matteo questa parabola è leggermente diversa perché egli la colloca al capitolo 18, cioè nel capitolo che riguarda i suggerimenti a come deve vivere la comunità, e rivolgendosi ai capi, ai responsabili della comunità, dice: quando uno nella comunità sbaglia, chi è responsabile lo deve andare a cercare. Quindi in Matteo la parabola riguarda piuttosto il comportamento di coloro che nella comunità hanno una responsabilità. In Luca questa parabola, come quella della moneta perduta, come quella del padre misericordioso, sono una risposta alle obiezioni che vengono fatte a Gesù. Egli mangia con i peccatori, alcuni obiettano, Gesù giustifica il suo comportamento con le tre parabole. E vorrei dire che in queste parabole ricorrono alcuni temi, alcuni termini che ci aiutano subito a leggerle meglio. L'introduzione diceva: si avvicinavano a Gesù i peccatori, gli scribi e i farisei mormoravano: costui riceve i peccatori. E in tutte e tre le parabole si fa più gioia per un peccatore convertito, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un peccatore che si converte: padre, ho peccato contro di te. Quindi il verbo peccatore, peccare, ricorre costantemente. Poi il tema si fa più concreto. Una cosa, la moneta, un animale, la pecora, una persona, un figlio, è perduto e ritrovato. ma più che sul figlio o sulla cosa perdute e ritrovati, l'accento è sulla gioia. Il proprietario ritrovato il suo oggetto, ritrovata la persona, è pieno di gioia e di una gioia tale che la deve partecipare agli altri. Questo vale per colui che aveva le 100 pecore, vale per la donna che ha perso una moneta, vale naturalmente per il padre. Al centro di interesse, quindi, non c'è principalmente ciò che è andato perduto, ma il proprietario felice di ritrovare ciò che aveva momentaneamente perduto. E per capire queste parabole è indispensabile proprio tener presenti i 3 versetti di introduzione. Gesù, fedele al programma che aveva annunciato a Nazareth, è in continua ricerca dei poveri, degli afflitti, degli oppressi. Mangia con loro. E vedremo nell'incontro prossimo quanto centrale sia in Luca il tema del pasto, il tema del banchetto consumato insieme. Gesù mangia insieme a queste persone e deve difendersi perché alcuni ritengono che i peccatori potrebbero sì convertirsi, ma dopo aver fatto una penitenza notevole, dopo aver pagato pubblicamente per il loro sbaglio. Detto questo, veniamo più direttamente alla parabola vera e propria. Delle 3 è quella notevolmente più lunga e si divide chiaramente in 2 quadri. Il primo quadro descrive il padre alle prese con il figlio minore, che vuole spartire i beni, però dopo ritorna. La seconda parte descrive il padre che deve dialogare, e forse infruttuosamente, con il figlio apparentemente fedele, con il figlio maggiore sempre rimasto in casa. Iniziamo subito con la prima parte, leggendo direttamente i primi versetti. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Questa prima parte, potremmo dire, descrive il modo con cui il figlio si è perduto e la forma che ha preso concretamente la perdita di questo figlio minore. La perdita consiste nella rottura totale dei rapporti col padre. Gli chiede la parte dei beni che gli spetta. Nel caso concreto, 1/3 del patrimonio lo poteva esigere. Prende questo patrimonio, naturalmente lo converte in denaro, e poi se ne va perché vuole organizzare indipendentemente la propria esistenza. Questa rottura dei rapporti col padre ha appunto dei segni esterni: la spartizione dei beni e l'allontanamento, e ha delle conseguenze e le conseguenze sono l'estrema povertà in cui cade il figlio e la sua occupazione estremamente degradante per un ebreo. Vivere in mezzo ai maiali. Vorrei dire che pochi passi della Bibbia illustrano meglio di queste righe cos'è il peccato. Lo so che il peccato ha in sé sempre qualcosa di misterioso. Il Concilio Vaticano II dice così nel decreto dei rapporti della religione cristiana con le altre religioni. Uno dei reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo, è il peccato. Quindi il peccato è uno dei reconditi enigmi della condizione umana. Non possiamo quindi pretendere di capirlo interamente, però mi pare che questi versetti che abbiamo letto ci fanno capire che il peccato, più che una generica violazione della legge di Dio, consiste in un allontanamento dell'uomo da Dio. Il peccato, cioè, consiste nel non voler ricevere l'amore del Padre, nel ritenere che a casa sua non si stia bene, non ci sia possibilità di libertà vera e di maturazione autentica. Il peccato consiste nell'impedire a Dio Padre di volerci bene, di amarci efficacemente. Consiste quindi nel privarlo della possibilità di trattarci come figli. È quindi un atto con il quale l'uomo nega la sua condizione di figlio, asserisce di non aver bisogno di Dio e in fondo in Dio, più che un papà, l'uomo col peccato vede un rivale, uno dal quale è meglio sottrarsi, uno che è completamente dedito nel difendere i suoi diritti e quindi è meglio abbandonarlo. I versetti seguenti della parabola descrivono il gesto della conversione, è da 17 a 20. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Se prima abbiamo visto il movimento di allontanamento, questi versetti descrivono l'altro movimento che riconduce il figlio al padre. E la svolta viene descritta così: rientrò in se stesso. Il figlio comincia a riflettere sulla sua esistenza e sulla sua situazione. E molti hanno notato, e giustamente, che questa conversione, questo pentimento, questo dolore, all'inizio è veramente un dolore imperfetto. Ciò che spinge il figlio a ritornare a casa è la mancanza di pane. Sono le necessità vitali che lo costringono a riflettere. Il dolore all'inizio nasce dal confronto fra il porcile in cui vive e la casa del padre dove prima abitava. Ma poi questo dolore, questa conversione si approfondisce. Prende coscienza questo figlio minore che la causa della sua miseria è la rottura dei rapporti col padre. Se lui sta male, se lui è affamato, è perché è lì dove è, cioè è lontano dal padre. Mentre a casa sua tutti, perfino i servi, hanno pane in abbondanza proprio perché vivono presso il padre. Comincia a capire quindi che presso quella persona si sta bene. E poi la conversione fa un terzo passo avanti. Capisce che quella persona non è un buon uomo generico, ma rimane sempre suo padre. E anche se lui è fuggito, si rende conto che ha ancora la possibilità di ritornare e chiamarlo papà. Quindi qui c'è tutto il tragitto della conversione, da prima interessata, poi incentrata sulla figura di quell'uomo che c'è in casa, infine quell'uomo è mio papà. Ancora qui abbiamo un insegnamento molto profondo sulla conversione, perché convertirsi non vuol mai dire cambiare Dio. Il suo atteggiamento nei nostri confronti non ha minimamente bisogno di cambiare. Lui ci ama sempre di un amore eterno. Convertirsi invece significa semplicemente cambiare se stessi, ridare a Dio la possibilità di volerci bene. E a Dio questa possibilità gliela ridiamo se ritorniamo da Lui. Quindi la conversione non è un ripagare Dio, ma è un dare noi stessi a Lui, perché Egli possa continuamente trattarci come figli. La parabola procede. Il terzo momento è l'affetto con il quale il figlio è accolto. È descritto nel versetto 20, la seconda metà. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Nelle due parabole precedenti c'era la gioia del pastore per la pecora ritrovata e c'era la gioia della donna per la moneta ritrovata. Ma qui più che di gioia si parla di affetto viscerale, commosso. Il greco dice esplanchniste, cioè i suoi visceri cominciarono a sciogliersi. Dall'interno di quel padre è nato un affetto profondo, appunto, diciamo in italiano, viscerale. Non quindi una gioia esterna superficiale, ma un affetto profondo, così come tante volte già nell'Antico Testamento era stato descritto, per esempio Esodo 34:6. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà. Quindi lo accoglie con un gesto di affetto viscerale e poi dice gli si gettò al collo e lo baciò. È lo stesso verbo che l'Antico Testamento adopera per descrivere l'amore di David nei confronti del figlio ribelle a Salonne, nel secondo libro dei re di Samuele. Quindi un gesto di profondo perdono. Quarto momento, la riabilitazione. È descritta questa riabilitazione nel versetto 22, 23 e 24. Il padre disse ai servi: presto, Portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Metteteli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questi versetti sono veramente di un effetto impressionante. La riabilitazione deve essere rapida. Presto. Il padre non attende e vuole che si faccia in fretta. E oltre che rapida, questa riconciliazione e riabilitazione deve essere totale. Prima erano stati descritti accuratamente tutti i segni del degradamento. Era andato a finire in mezzo ai maiali. Ora devono sparire velocemente. Portate il vestito più bello. Metteteli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Il figlio riceve più di quello che osasse sperare. Trattami come uno dei tuoi servi. Riceve non quello che merita, ma riceve quello che il padre gli dona gratuitamente, senza far calcoli, senza tener conto della caduta. Gli dona un vestito nuovo, l'anello al dito, i calzari ai piedi. Chi ha un po' di familiarità con la Bibbia sa che quando Giuseppe venne proclamato viceré d'Egitto, ricevete un vestito nuovo, l'anello al dito, cioè il sigillo, i calzari nuovi. Lo stesso nel libro di Ester, cioè un vestito nuovo, un anello al dito, calzari ai piedi, sono i segni di una investitura regale. Questo figlio è reinvestito nella sua totale e completa dignità. Anzi, riceve una dignità maggiore di quella che aveva avuto prima. Ecco perché la liturgia commenta, dicendo ad esempio nella liturgia del Natale: «O Dio, che hai creato l'uomo mirabilmente a tua immagine, e in modo ancora più ammirabile lo hai redento». E dopo Pasqua pregheremo così: «O Dio, tu hai redento l'uomo innalzandolo oltre l'antico splendore». Questo figlio è stato innalzato oltre l'antico splendore. E poi c'è la gioia, la festa, testimoniata dal banchetto, e sappiamo che nell'antichità mangiare carne non era un lusso quotidiano, ma era un segno veramente visibile a tutti di una festa notevole. Perché far festa? Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Alla lettera, questo tornato in vita è risuscitato. L'uomo che si converte viene da Dio risuscitato. Ed è proprio per questi tre versetti che la parabola del Padre misericordioso è chiamata cuore del terzo Vangelo. Proprio perché Gesù qui, con parole toccanti, ha descritto che la vera ragione dell'accoglienza non sta principalmente nel pentimento del figlio, nelle sue disposizioni d'animo, ma sta unicamente nell'affetto del padre. L'abbruttimento nel quale il figlio era caduto non impediscono a quel padre di vedere in quel giovane il suo figlio. Già il libro della Sapienza proprio nelle prime righe, aveva detto: «Dio non gode per la rovina dei viventi». E il Salmo 146 dice: «Il Signore rialza chi è caduto». Questo è quanto dice la prima parte della parabola in questo suo tratto culminante. E vorrei dire che è una cosa che ciascuno di noi sperimenta nel sacramento della riconciliazione, celebrazione dell'amore di Dio che ci ricrea, che ci innalza oltre l'antico splendore. E penso che spetta in modo speciale al ministro, al sacerdote, introdurre il penitente a gustare questa gioia di essere innalzato oltre l'antico splendore e di essere accolto dal Padre. Sappiamo che la parabola non termina qui. Segue una seconda parte. Ci sono infatti nel Vangelo, non solo di Luca ma anche negli altri Vangeli, alcune parabole che hanno una doppia finale. Gli esegeti, con un po' di fantasia, chiamano queste parabole parabole a coda di rondine, cioè hanno due conclusioni, due finali. Una di queste, per esempio, la parabola degli invitati al banchetto. Poveri, storpi, ciechi sono stati invitati a entrare, Dio accoglie tutti, però la parabola non termina lì, ce n'è uno senza veste nuziale. Oppure la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone. Lazzaro muore e viene accolto nel seno di Abramo. Il ricco Epulone, morto nell'egoismo, non può condividere la gioia di Dio. Però la parabola ha un'altra finale: ho cinque fratelli, manda Lazzaro perché essi si convertano. Anche questa parabola ha una doppia finale, e normalmente quando c'è una doppia finale il peso è proprio sulla seconda. Questa seconda parte mostra il padre alle prese con il figlio maggiore. Prima la leggiamo. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello, e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Questo figlio maggiore viene introdotto mentre ritorna dal suo lavoro quotidiano nei campi. E quindi subito attira la simpatia del lettore. Di fronte a quell'altro che ha scialacquato tutto in una maniera indegna, questo figlio così premuroso, così probo, così equilibrato, subito si attira la nostra simpatia. Rispetto all'altro, egli è stato un esecutore scrupoloso della volontà del padre. Ciò nonostante, la parabola lo condanna. Egli è sdegnato. Ritiene che il padre sia ingiusto e gli rivolge quindi una requisitoria molto dura. Tu non hai fatto niente per il tuo figlio onesto, fedele e virtuoso. E il padre gli risponde con tuono affettuoso e gli fa presente la felicità inestimabile che egli, figlio maggiore, ha goduto. Ha avuto una continua comunione di vita col padre. E proprio qui è il vertice di questa seconda parte. Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ed emerge chiaramente che il figlio maggiore è rimasto a casa col corpo, però in realtà ha commesso lo stesso identico peccato del figlio minore. In quell'uomo che aveva a casa non ha mai scoperto il padre. In quell'uomo al massimo ha visto il vecchio, che un giorno morirà e mi lascerà tutto. Non ha mai visto in quell'uomo un padre e con lui non ha mai avuto un colloquio di amore, soltanto ossequio, soltanto fedeltà, diremo soltanto paura. Non ha mai capito che quando si è vicini al padre si è nella felicità e che la felicità per l'uomo è possibile solo vicino al padre. Lui lo ha sempre scambiato per un padrone e mai come uno che veramente ama. Non lo ha mai capito questo, non vuole ammetterlo nemmeno adesso e stenta a convertirsi. Il figlio minore ha capito che lontani da casa non si può trovare felicità. Il figlio maggiore non è capace di gioire perché non ha mai scoperto che Dio è padre. La parabola veramente sottolinea che tutti e due i figli sono peccatori. E questa è la condizione di ogni uomo. Però uno dei figli sa di essere peccatore e comincia a convertirsi, da prima in una maniera, dicevo prima, imperfetta, interessata, poi in una maniera più piena. E in base a questa ammissione del peccato cambia atteggiamento e torna indietro. L'altro figlio non vuole riconoscere di essere peccatore e non vuole cambiare la vita. E la parabola sottolinea che il padre li tratta nell'identica maniera tutti e due. È uscito incontro al figlio prodigo, ma dice anche: il padre uscì a pregare il figlio maggiore. Li ha trattati tutti e due nella stessa maniera. È andato incontro a tutti e due, al minore pentito, al maggiore che stenta ad ammettere la sua colpa. Dio viene per tutti gli uomini, perché tutti sono peccatori. Alcuni, insegna la parabola, sanno di esserlo, altri non lo vogliono ammettere. Alcuni sanno di essere e diventano convertiti, altri non lo vogliono ammettere e più che convertiti diventano indispettiti. Paolo applicherà lo stesso schema nei primi capitoli della lettera ai Romani, quando tratterà la situazione dei pagani che hanno bisogno del perdono e dei giudei che hanno altrettanto bisogno di Cristo e non lo ammettono. E la parabola termina così senza dirci il risultato delle ultime parole del Padre. Perché non ci viene detto il risultato? Perché la parabola è rivolta a persone che assomigliano più al figlio maggiore, a persone cioè che vivono in casa. E ad esse è rivolto l'invito a scoprire il nuovo volto di Dio. È rivolto l'invito a convertirsi e a gioire. E la parabola non dice se il figlio maggiore si è convertito e ha preso parte alla gioia, perché questa risposta la deve dare ciascun lettore. È il lettore direttamente interpellato nella seconda parte. E se non c'è la conclusione, è perché ciascuno di noi deve scriverla con la sua propria esistenza. A questo punto, forse, occorre, per ulteriore chiarimento, identificare un po' meglio questo figlio maggiore, certamente personaggio complesso, modello di fedeltà, ma nello stesso tempo cattivo fratello e cattivo figlio. Chi è questo personaggio? Compie il servizio in casa con una fedeltà che dura da anni. Non ha mai trasgredito un minimo comandamento. Penso che non si potrebbero adoperare parole più chiare per descrivere i farisei. Non hanno mai trasgredito un comandamento, vivono con una fedeltà scrupolosa che dura da anni. Stimano però che questo loro comportamento conferisca loro dei diritti se non altro a disprezzare gli altri. Adesso che è tornato questo tuo figlio, non dice questo mio fratello, adesso che è tornato questo tuo figlio. Il padre non nega che il figlio minore abbia peccato, ma vuole salvare anche il maggiore, ammonendolo a non volersi giustificare troppo in fretta, a non voler osservare soltanto la legge per poter essere più crudele e intransigente nell'accusare gli altri. Lo avverte di non voler pretendere di essere capace di amare da solo, di non voler inorgoglirsi della sua osservanza formalistica della legge. E ripeto, posto di fronte a questo, il figlio maggiore sembra più indispettito che convertito. La parabola quindi ci dice in cosa consiste la giustizia e la riconciliazione. Il figlio minore da un'ingiustizia palese è passato a una giustizia che però gli è stata totalmente, gratuitamente donata. Il figlio maggiore, troppo sicuro di sé, non accetta che a dargli veramente vita e gioia è solo il padre e non l'osservanza scrupolosa delle leggi. E il padre avverte che la giustizia che l'uomo può ricevere è soltanto frutto dell'amore, della misericordia, della grazia di Dio. Un ultimo pensiero prima di concludere. Questa parabola parla del comportamento di Dio verso i peccatori. Il comportamento di Dio Padre verso il figlio minore e il tentativo del Padre verso il figlio maggiore. Però i farisei non avevano criticato Dio Padre. I farisei avevano criticato Gesù. E Gesù si giustifica parlando di Dio Padre. Cosa significa questo? Ciò significa che Gesù qui in questa parabola rivendica di fare suoi i sentimenti, gli atteggiamenti di Dio. Come il Padre ama e perché il Padre ama, Gesù ha diritto di riabilitare totalmente ogni peccatore e di far questo con gioia. Indirettamente, quindi, la parabola parla di Gesù. Essa parla del Padre, che è Dio. Ma tramite questa parabola Gesù giustifica il suo comportamento. Quindi con questa parabola, in fondo, Gesù dice che Lui e il Padre sono profondamente uniti, che Lui deve comportarsi così perché abbiamo visto due incontri precedenti: a evangelizzare i poveri ha mandato me. Quindi Lui è l'inviato autentico, è l'inviato che ha, diremmo oggi, le carte credenziali a posto. E parlando di Dio Padre, egli indirettamente parla di sé, o forse meglio, vedendo come lui si comporta, i farisei dovrebbero essere aiutati a scoprire il volto di Dio. Filippo, sono stato tanto tempo con voi, chi vede me vede il Padre. Quindi parlando di Dio Padre, Gesù in fondo parla di sé e la parabola dà la chiave non solo per capire che Dio Padre è misericordioso, ma per capire anche il ministero di Gesù. Quindi dire, come è stato accennato nell'introduzione, che Luca è lo scriba della mansuetudine di Cristo equivale a dire che Luca è lo scrittore della mansuetudine del Padre. Perché Gesù è stato mandato dal Padre e soltanto tramite questo inviato e il suo modo di agire l'uomo riesce a risalire al volto del Padre. Quindi con un'unica parabola Gesù giustifica e il suo comportamento e illustra chi è Dio Padre, e questo avviene in quasi tutte le parabole. Il seminatore chi è? Dio Padre o Gesù? Più che dire o, dobbiamo dire e. È il Padre che per noi è diventato visibile in Gesù. Ecco quindi che questa parabola ci dice del Padre come si comporta, ma ci dice anche che questo volto di Dio diventa per noi accessibile e concreto nella persona di Gesù. Giovanni Paolo II, nell'enciclica Redemptor Hominis, ha scritto che per noi oggi il volto dell'amore e della misericordia di Dio Padre ha un nome, e questo nome è Gesù. Bene, ringrazio anche di questa serata, anche a nome di tutti voi. Congedo quelli che hanno piacere d'andare, e quando sono le 7 vedo che insomma i più hanno questo impegno. Da parte